Quando qualcuno cerca le vie della scienza occulta nel modo descritto nel video precedente, non deve trascurare di fortificarsi durante tutto il suo lavoro per mezzo della costante azione di un pensiero. Deve cioè tenere sempre presente che dopo qualche tempo può aver fatto dei progressi importanti senza che questi gli si palesino nel modo che forse si aspettava. Chi non vi riflette perderà facilmente la costanza e rinuncerà dopo poco tempo ad ogni tentativo. Le forze e le capacità che si devono sviluppare sono all'inizio di una natura tenue e delicata e la loro essenza è del tutto diversa da ciò che ci si poteva prima attendere. C'eravamo infatti abituati ad occuparci soltanto del mondo fisico. Quello spirituale e quello animico sfuggivano ai nostri sguardi ed anche ai nostri concetti. Non vi è dunque da meravigliarsi se non ci accorgiamo subito delle forze spirituali e animiche che ora si sviluppano in noi. In questo vi è la possibilità di un errore per chi, senza attenersi alle esperienze raccolte dagli occultisti esperti, si avvia sul sentiero dell'occultismo. L'occultista conosce i progressi conseguiti dal discepolo molto tempo prima che questi ne diventi a sua volta consapevole. Egli sa come i delicati occhi spirituali si stiano formando prima che lo sappia il discepolo. Gran parte delle istruzioni date dall'occultista consiste appunto nel fare in modo che il discepolo non perda la fiducia, la pazienza e la perseveranza prima di arrivare alla conoscenza del proprio progresso. L'occultista nulla può dare al suo discepolo che già non risieda nascostamente in lui. Può solo guidarlo verso lo sviluppo delle capacità latenti. Ciò che egli comunica delle proprie esperienze servirà di appoggio a chi dall'oscurità vuol penetrare nella luce. Molti abbandonano il sentiero della scienza occulta poco tempo dopo esservi entrati perché il progresso raggiunto non riesce loro subito visibile. Anche quando le prime esperienze superiori diventano percepibili per il discepolo, egli spesso le considera illusioni perché sono del tutto diverse dall'idea che se n'era fatta. Egli perde coraggio, o perché non attribuisce valore a quelle prime esperienze, o perché le giudica talmente insignificanti da non credere che possano condurlo in un tempo prevedibile a risultati importanti. Il coraggio e la fiducia in se stessi sono due luci che non si devono lasciar spegnere sulla via della scienza occulta. Chi non sa risolversi di nuovo, ripetendo con pazienza un esercizio che sembra aver fallito innumerevoli volte, non potrà arrivar lontano. Molto prima che il discepolo abbia la percezione chiara dei progressi conseguiti, sorge in lui un vago sentimento di essere sulla via giusta. Quel sentimento deve essere custodito e coltivato, perché può diventare una guida sicura. Anzitutto conviene liberarsi dall'idea che occorrano pratiche strane e misteriose per arrivare a conoscenze superiori. Ci si deve rendere chiaramente conto che si deve partire dai sentimenti e dai pensieri con cui si vive di continuo e che si tratta soltanto di dar loro una direzione diversa da quella abituale. Ognuno deve dirsi anzitutto che nel mondo dei propri sentimenti e pensieri stanno nascosti i misteri più alti, ma che finora non li ha potuti percepire. In ultima analisi, tutto si risolve nel fatto che l'uomo porta con sé di continuo corpo, anima e spirito, ma è chiaramente cosciente soltanto del proprio corpo, non della propria anima e non del proprio spirito. Invece, il discepolo dell'occultismo diventa cosciente della propria anima e del proprio spirito, come gli uomini lo sono di solito, del proprio corpo. Questa è la ragione per cui importa dare ai sentimenti e ai pensieri la giusta direzione. Allora si sviluppano le percezioni per ciò che è invisibile nella vita ordinaria. Verrà qui indicata una delle vie per raggiungere quello scopo. È di nuovo un mezzo semplice, come quasi tutto ciò che finora è stato comunicato, che però produce i più grandi effetti se viene praticato con costanza e se ci si dedica ad esso col giusto atteggiamento intimo dell'anima. Ci si ponga dinanzi al piccolo seme di una pianta. Di fronte a questo oggetto insignificante si tratta di sviluppare con intensità giusti pensieri e con essi determinati sentimenti. Anzitutto ci si renda chiaramente conto di cosa in realtà si vede con gli occhi. Si descriva la forma, il colore e tutte le altre proprietà del seme. Poi si facciano le seguenti riflessioni. Da questo seme, se piantato nella terra, nascerà il complesso organismo di una pianta. Ci si rappresenti la pianta costruendola nella propria fantasia e poi si pensi. Le forze della terra e della luce più tardi faranno realmente scaturire dal seme ciò che ora mi rappresento con la fantasia. Se avessi davanti a me un oggetto artificiale che imitasse quel seme con tale perfezione che i miei occhi non potessero distinguerlo da un seme vero, nessuna forza della terra e della luce ne farebbe scaturire una pianta. Chi comprende con chiarezza, sperimenta interiormente questo pensiero, potrà anche col giusto sentimento formare il seguente altro pensiero. Nel seme già riposa nascosta, come forza dell'intera pianta, ciò che più tardi ne crescerà. Nell'imitazione artificiale questa forza non c'è, non di meno per i miei occhi entrambi sembrano uguali. Il vero seme contiene dunque qualcosa di invisibile che non esiste nell'imitazione. Su ciò che è invisibile occorre svolgere il pensiero e i sentimenti. Si pensi. Ciò che è invisibile si trasformerà più tardi in pianta visibile che mi apparirà con forma e colore. Ci si fermi su questo pensiero. Ciò che è invisibile diventerà visibile. Se non potessi pensare, non mi si potrebbe neppure palesare fin d'ora ciò che diventerà visibile soltanto più tardi. Va sottolineato con precisione. Ciò che così si pensa deve anche essere intensamente sentito. Nella calma, senza intromissione disturbatrice di altri pensieri, bisogna sperimentare in sé il pensiero sopraccennato e lasciarsi il tempo necessario perché il pensiero e il sentimento che ad esso si ricollega si possano imprimere in certo qual modo nell'anima. Arrivandovi nel modo giusto, dopo qualche tempo, magari soltanto dopo molti tentativi, si sentirà interiormente una forza che provocherà in noi una nuova visione. Il seme ci apparirà come racchiuso in una piccola nube luminosa. Dai sensi spirituali verrà sentito come una specie di fiamma. Dal suo centro si riceverà un'impressione come quella che ci procura la vista del colore lilla. Dal suo orlo si avrà l'impressione che ci procura il colore azzurrognolo. Appare così ciò che prima non si vedeva e che è stato creato dalla forza dei pensieri e dei sentimenti destati in noi. Ciò che prima era invisibile per i sensi, cioè la pianta che diventerà visibile soltanto più tardi, ci si rivela in modo spiritualmente visibile. È comprensibile che molti considerino tutto ciò un'illusione e dicano: che me ne faccio di tali visioni, di tali fantasmi? E rinuncino a proseguire il cammino. Il punto è, proprio in questi momenti difficili della propria evoluzione, di non confondere fra loro fantasia e realtà spirituale e di avere inoltre il coraggio di spingersi avanti senza timidezza e senza paura. D'altra parte, però, bisogna senz'altro insistere affinché sempre si coltivi il sano criterio che distingue la verità dall'illusione. Durante tutti questi esercizi non si deve mai perdere il pieno e cosciente dominio di se stessi, si deve continuare anche ora a pensare con la medesima sicurezza con la quale si pensa sulle cose e i processi della vita quotidiana. Sarebbe male se ci si abbandonasse a fantasticherie. L'intelletto deve rimanere continuamente chiaro, per non dire freddo. Sarebbe massimo errore se a seguito di questi esercizi si perdesse il proprio equilibrio e non si fosse più capaci di giudicare le vicende della vita quotidiana con la consueta serenità e chiarezza. Il discepolo dell'occultismo deve perciò sempre di nuovo esaminarsi per verificare se non ha perso il suo equilibrio e se è rimasto il medesimo in mezzo alle circostanze in cui vive. Deve conservarsi la facoltà di poggiare saldo in se stesso, di pensare chiaramente su tutto. È comunque necessario stare ben attenti a non abbandonarsi a fantasticherie e a non seguire ogni specie di esercizi. Le direttive del pensiero che sono qui esposte sono state vagliate e praticate nelle scuole occulte fin dai tempi antichissime. Queste soltanto vengono qui comunicate. Chi volesse applicarne altre di diverso genere, da lui stesso ideate o di cui avesse letto o sentito parlare, cadrà in errore e presto si perderà in un pelago di vane fantasticherie. Un altro esercizio da aggiungere a quelli già descritti è il seguente. Ci si ponga dinanzi ad una pianta che sia del tutto sviluppata. Ci si compenetri del pensiero che verrà un tempo in cui la pianta morrà. Nulla più vi sarà di ciò che ora vedo dinanzi a me. La pianta avrà però sviluppato semi che a loro volta diverranno nuove piante. Di nuovo mi rendo conto che in ciò che vedo esiste qualcosa di nascosto che non vedo. Mi riempio tutto del pensiero che questa pianta, con la sua forma e i suoi colori, non esisterà più in avvenire. L'idea che la pianta formi dei semi mi insegna però che essa non sparirà nel nulla. Non posso vedere con gli occhi ciò che la salva dell'annientamento, così come prima non potevo vedere la pianta nel seme. Vi è dunque in essa qualcosa che non posso vedere con gli occhi, se in me faccio vivere questo pensiero e adesso si unisce in me il sentimento che vi corrisponde, si sviluppa a sua volta nella mia anima, dopo un determinato tempo, una forza che si trasforma in una nuova visione. Dalla pianta scaturisce anche qui una specie di fiamma spirituale, naturalmente più grande di quella prima descritta. La sua parte centrale può essere sentita come celeste verdastra e l'orlo esterno come rosso giallognolo.